e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. In un grande magazzino una volta al mese spingere un carrello pieno sotto braccio a te. E voi con chi spingerete, con chi state spingendo il carrello della spesa per gli acquisti dedicati ai pranzi e ai cenoni che ci stanno aspettando? Intanto buongiorno da Nicoletta, un saluto anche a Deborah che ci starà sicuramente ascoltando nel corso di tutti i suoi spostamenti. Già ci manchi, Deborah, torna presto. Ma per tornare al nostro carrello della spesa, quanti denari spenderemo per i menù delle feste? Voi avete già stabilito un budget? Pensate di approfittare delle offerte o anche dei mercatini che sono alle gestiti direttamente dagli agricoltori? 800 24 00 24 per raccontarci la vostra ricetta di risparmio. Nella seconda parte invece noi ci trasferiremo in cucina con una coppia d'eccezione, un medico, il nostro dottor Attilio Speciani, allergologo e immunologo clinico a Milano, e un cuoco stellato, Andrea Ribaldone, insieme qui per aiutarci a coniugare gusto e salute senza sottoporci a inutili e mortificanti rinunce. Quindi preparatevi se avete dubbi, domande, se invece avete delle ricette, dei trucchi, dei consigli da condividere con noi, restate e chiamate il nostro numero verde 800 24 00 24. Intanto benvenuto ad Andrea Ribaldone. Ciao Nico, ciao a tutti. Poi parleremo della tua stella. Va bene, grazie. Ecco, un cuoco stellato dei due buoi di Alessandria e il nostro dottor Noce, il dottor Noce, Attilio fantastico. Speciani. Con voi faremo la spesa, andremo anche in cucina, ma parola d'ordine, niente rinunce? Assolutamente, quest'anno io credo che abbiamo bisogno anche di gratificare lo spirito. Allora, il dottor Speciani ci ha portato 10... ben 10 Babbo Natale sono, sì, un Babbo Natale coi fiocchi, 10 libricini controllare il peso attivando il metabolismo che ci possono venire utile in questi giorni di Natale e di vacanze. Allora, 5 li assegnerà il dottor Speciani, 5 li assegnerà Andrea Ribaldone, ma naturalmente per riceverli a casa dovete mettervi in gioco, quindi pensate a come attivare i nostri ascoltatori. Intanto noi siamo pronti, andiamo. Vai dallo charcutier qui alla cantonata, eh? Da chi? Dallo charcutier alla cantonata. E chi è questo charcutier? Il pizzicagnolo, il salumiere. Il casaduoglio. E parvagliaro. Il bottegaio. Oh. Gli lasci questa roba in pegno e ti fai dare 1,5 kg di spaghetti. Non pigliare la pasta. Allora, grossa, facciamo due conti. La spesa media per il cenone di Natale ammonterà a 35,52 euro a persona, pari a circa 195 euro per famiglia. Una famiglia che è composta da i genitori, due figli, due nonni. Il menù anticrisi, che comprende invece pesce e vini un pochino più economici, costerà invece circa 16 euro a persona, per un totale di 95 euro a famiglia, pari al 51% in meno rispetto al menù classico. Questo preventivo della cena di Natale ce l'ha fatto l'Osservatorio Nazionale della Federconsumatori, ma abbiamo altri dati degni di nota. Quest'anno il 22% degli italiani spenderà più dell'anno scorso per cibi e bevande, e ad aiutare le tasche dei consumatori l'aumento delle promozioni, le offerte speciali nella grande distribuzione, ma anche le opportunità che ci sono girando nei nostri paesi dei mercatini allestiti dal mondo dell'agricoltura. Le spese sono comunque sotto controllo e assolutamente made in Italy, no a frutta esotica e caviale, vincono invece i prodotti legati al territorio e alla tradizione. Queste informazioni ci arrivano dalla CIA, che è la Confederazione Italiana Agricoltori, che tra poco ci racconterà quali sono i generi alimentari che hanno registrato movimenti di prezzo significativi. Allora diamo il benvenuto a Domenico Mastro Giovanni del Dipartimento Economico CIA, Confederazione Italiana Agricoltori. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, 800 24 00 24, come anticipato, in questa prima parte parliamo del carrello della nostra spesa di questo Natale 2015 e quindi vi invitiamo a condividere con noi la vostra spesa di Natale. Prodotti della tradizione italiana? Caccia alle offerte o per un giorno non si bada a spese? Vi siete concessi qualcosa di esotico oppure porterete solo il made in Italy agroalimentare sulla vostra tavola? Raccontateci un po' le vostre scelte oppure scrivete scriverci al 349-238-6666, anche via WhatsApp. Dottor Mastro Giovanni, la tavola è sempre la prima voce di spesa nel budget delle feste, nonostante le tredicesime già destinate al pagamento di tasse, bollette e mutuo, le famiglie non rinunceranno alle tradizioni enogastronomiche. Quanto spenderanno allora gli italiani per il carrello alimentare dei prossimi giorni? Allora, la cifra questi giorni va intorno ai 3 miliardi di euro e viene messa in campo una combinazione fra tradizione da rispettare, ma anche creatività, perché gli italiani stanno mostrando una capacità di reazione al periodo che stiamo vivendo, per cui si va alla ricerca di quella che è la specificità, il prodotto del territorio, la possibilità di acquistarlo online o andare direttamente a fare la spesa in campagna, in modo tale da avere un mix di rispetto della tradizione dall'altro, ma anche di riuscire a suscitare la sorpresa, perché diciamolo, intorno al tavolo c'è convivialità, bisogna discutere di qualcosa. Quando, oltre a discutere di politica, di economia, si può parlare di un qualcosina ricercato sul territorio, un vino DOP, un prodotto IGP, è un elemento che favorisce, diciamo, il mantenimento della tradizione, un dialogo positivo sulla dieta alimentare, come dicevano lei, come diceva lei all'inizio. Allora, parole, quelle del dottor Mastro Giovanni, che suonano un po' come musica, no? Sia per Andrea Ribaldone che per il nostro dottor Attilio Speciani, ha detto tradizione e creatività. Andrea. Sicuramente è quello da mettere in tavola, la tradizione e la creatività in tavola Natale è veramente la cosa giusta. Io, la mia idea è quella di partire dai prodotti davvero del territorio. Io penso ad esempio, invece del salmone, perché non usare una trota e lavorarla magari a casa? Questa è la prima provocazione che lanciamo. Dottor Speciani? Ah, io sto mangiando un mucchio di trote in questo periodo qua. Un trotarolo? Sì, io sono un trotarolo, devo dire, le trovo piacevoli, belle, affumicate, sono anche biologiche, sono buonissime, costano meno del salmone, sono più etiche, più ecologiche e sono fantastiche. Poi la maionese la fa mia moglie. Quando lavorano gli altri è ancora meglio. Tra l'altro, dottor Mastro Giovanni, un altro monitoraggio condotto invece da Confesercenti sostiene che in tema regali gli italiani regalano volentieri cibo e vino prima di tutto, e quest'anno sembra esserci un vero boom per i cesti enogastronomici, che diciamo fanno sempre piacere, già pronti, oppure dei cesti fai da te. Dottor Mastro Giovanni, ci sembra una buona notizia questo, un buon modo per sostenere l'agricoltura italiana? È una notizia, oltre che buona, utile, sì, perché di fatto favorisce, come dicevo, il mantenimento sia di una diversità dell'economia italiana e un recupero di tante specificità, che sia la trota, che sia un altro prodotto, che noi siamo capaci di produrre e offrire sul mercato, sia nella grande distribuzione ma anche in quei punti locali dove si cerca l'abbinamento un po' di cultura, tradizione e buona gastronomia. Allora, proviamo a confezionare il nostro cesto enogastronomico, facciamone uno proprio con i prodotti della tradizione agricola italiana. Lei cosa ci metterebbe dentro ad un prezzo sostenibile per una famiglia italiana? C'è una capacità. La trota di a questo punto, perché è stata richiamata più voci dal dottor Speciani, esatto, e da Andrea Ribaldoni, e non possiamo naturalmente contraddirli, perché anche sono in studio con me, mi ammazzano. Ecco. Io partirei da un po' di salume e un po' di formaggi per cominciare a degustare, per poi tornare a degustare un po' di pasta fresca, su cui siamo dei specialisti come italiani. E poi da un punto di vista pratico abbiamo tante possibilità di consumare prodotti delle nostre aziende, che sia carne prodotta in azienda o del pesce prodotto anche nelle nostre aziende agricole, che viene messo a disposizione per essere accompagnato da un prodotto principe e made in Italy, che sta conquistando il mondo, che è lo spumante italiano, questa bevanda frizzante che accompagna con le bollicine. Allora, vorrei adesso sottoponiamo, le faccio dare un voto da Andrea Ribaldone e dal dottor Speciani. Il cesto che ci ha confezionato e suggerito il dottor Mastro Giovanni, vi piace o avreste aggiunto qualche cosa di diverso, in più, in meno? Allora, io metterei tante verdure anche dentro, perché di stagione ce ne sono straordinarie. Io penso ai cardigobbi, penso alle zucche adesso. Sono un po' lunghi da pulire, il cardogobbo no. perché comunque si mangia tutto e quindi non è come il cardo normale, è molto più facile da lavorare. Però insomma aggiungerei delle verdure, e Attilio penso sarà d'accordo con me, e metterei il riso, che sulla tavola italiana non deve mai mancare, l'abbiamo un po' riscoperto tutti, e bollicine italiane, sono d'accordo, ma di qualità, perché poi dopo l'idea è sempre dobbiamo andare in Francia ad attingere, però c'è del Franciacorta straordinario, Alta Langa, e spumanti sicuramente di altissimo livello che possono, quindi, a livello di prezzo essere anche stiamo più confezionando un cestone, dottor Speciani. Io sono abbastanza d'accordo con il dottor Mastro Giovanni, abbasserei la proporzione dei salumi ad esempio, però ci metterei dentro diverse produzioni di cereali, lui ha detto il riso, mi dico abbiamo una ricchezza di nuovi cereali che stanno nascendo, di coltivazioni differenti, integrali, perché abituare di nuovo le persone a rimangiare i prodotti della nostra tradizione è utile, e oltretutto è beneficissimo, non si dice ma l'ho detto lo stesso, rende dal punto di vista della salute. Allora, dottore, lei si inizia a pensare a suggerirci tre prodotti che sono particolarmente convenienti, facciamo una sorta del chi sale chi scende quest'anno. Intanto voglio dare la parola a Pierpaola che ci chiama da Torino, perché oggi i nostri ascoltatori hanno una ragione in più per intervenire in diretta, possono farci gli auguri e questi sono sempre graditi, possono portarsi a casa un consiglio, un'informazione da due dei nostri esperti, e anche ricevere a casa controllare il peso attivando il metabolismo se vorranno mettersi in gioco. Pierpaola. Buongiorno. Buongiorno. Fatto la spesa lei già? Si è portata avanti? Sì, mi sto già attivando per il pranzo di Natale, che sarà un pranzo della tradizione piemontese, quindi gli agnolotti, il brasato, una deviazione sul cinghiale al filè, sì, e poi soprattutto a livello proprio così già di abitudine familiare, molti prodotti di autoproduzione. Noi cerchiamo di utilizzare il più possibile i prodotti della terra, quel sì, piccolo appezzamento di terreno che possiamo coltivare, e quindi io metterò in tavola per esempio la frutta secca composta da mele secche, cachi secchi, fichi secchi, tutti prodotti in casa. Sì. Abbiamo il vino dolcetto che ci autoproduciamo. Certo. E quindi il nostro pranzo sarà impostato così su una cucina molto basata sui prodotti a chilometro zero o comunque italiani, e le bollicine ovviamente italiane. Bollicine italiane, direi che viene quasi voglia di andare a pranzo, no? A festeggiare il Natale con Pierpaola. Mi sembra che abbia messo in tavola tutta la tradizione, ma anche, no, i prodotti che si preparano. Poi abbiamo affrontato tante volte alla fine dell'estate la grande opportunità che l'orto offre anche per preparare conserve che poi si tirano fuori giusto nell'inverno per dare gusto e colore anche alla nostra tavola. Io trovo bellissimo questa idea del conservare le cose, quindi le mele, i cachi, la frutta seccata e conservata in modo adeguato. In questo pranzo vedo mancare, ma sicuramente Andrea mi dà ragione dall'altra parte, che so, un inizio con una insalatina tagliata, con un cardo fresco, con qualcosa di fresco e vitale. Sai che crudo, vivo e colorato è un martellamento, nostro, è un mantra, e quindi e tra l'altro lo diciamo a Pierpaola, certo, ma nel corso della trasmissione tanti suggerimenti per, come si dice, coniugare gusto e salute senza inutili rinunce. Adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Ritorniamo subito dopo insieme col dottor Mastro Giovanni, a cui chiederemo di dirci quali sono gli articoli, i generi che hanno manifestato rispetto allo scorso anno degli aumenti di prezzo, chi sale chi scende, subito dopo, e anche con Maria da Viterbo, tra poco. Cuore e denari. Orecchiette alla pugliese, tortellini alla bolognese. A noi ci piace mangiare. salta in bocca alla Roma. Allora, noi ci stiamo preparando per i grandi pranzi, cene che ci aspettano in questi giorni di feste. Stiamo facendo la spesa, poi ci trasferiremo in cucina. E a proposito del carrello della spesa, dottor Mastro Giovanni, ci dica un po' quali sono i generi che hanno manifestato rispetto allo scorso anno degli aumenti di prezzo, che cosa sale? Allora, diciamo che partendo dal fatto che la frutta e la verdura di stagione sono un asset, un must che non possiamo dimenticare, noi abbiamo riscontrato che la frutta secca, la frutta in guscio, quest'anno ha una richiesta maggiore, così come la pasta fresca e i legumi. Sembra che ci sia la tendenza a ricercare un qualcosa che viene ordinato anche qualche giorno prima per poter essere ritirato. E poi tutte quelle bollicine a denominazione di origine, indicazione geografica italiane, sono elementi che hanno riscontrato un andamento positivo e questo ci fa sommo piacere. Mentre scendono? Scendono quei prodotti che sono un po' non importati, ma che appartengono poco alla nostra cultura, cosiddetta frutta esotica, nelle sue forme vediamo che c'è un calo, così come diceva qualche altri ospiti, il caviale o questi prodotti che vengono considerati un po' kitsch nell'ambito del Natale sono stati un po' anni 80, direi, no Andrea? Vero? Sicuramente è buono il caviale, però certo. Se ne può fare a meno, se ne può fare a meno sicuramente. E in ultimo mi ha detto frutta esotica, in caviale? E vediamo che c'è una tendenza, anche con un gusto dell'italiano a bere moderato, a un calo dei prodotti superalcolici. Questo è un bene, fondamentalmente. Dottor Mastro Giovanni, prima di salutarla, le chiedo un commento sul clima e agricoltura, perché con il nostro esperto, il dottor Mauro Mocci, noi sino al 31 di dicembre monitoreremo la qualità dell'aria lungo lo stivale. La situazione non è sicuramente rosea. Che ripercussioni ci saranno sull'agricoltura e di conseguenza sui prezzi? Allora, noi abbiamo una fase caratterizzata da una siccità estrema e questo sta rallentando, diciamo, quelli che sono i lavori invernali che servono a produrre quei prodotti che verranno poi raccolti nel corso della primavera. Noi ci auguriamo che nell'arco di qualche giorno la situazione cambi, perché potremo avere nel corso della primavera un po' di carenza di quei prodotti che sono tipici dell'alimentazione italiana, cioè la verdura e alcune tipologie di frutta che potrebbero avere dei danni a causa di questa carenza di piogge che ormai dura da quasi 2 mesi. Certo. Allora, non mi resta che augurarle un buon Natale, dottor Grazie Mastro Giovanni, buone feste e continui a seguirci, continui, resti con noi, perché sicuramente i nostri esperti potranno suggerirle anche dei consigli, dei suggerimenti, dei trucchetti. Andiamo a Maria, che ci chiama da Viterbo, poi intanto preparate le vostre richieste per i nostri ascoltatori. Maria, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, tanti auguri a tutti. Anche quanti, a lei, anche Maria. Anche allora, a Deborah che ci stava ascoltando. Io vorrei aggiungere nel cesto natalizio, come dono fatto proprio con amore, una lattina, una bottiglia di olio d'oliva. Brava! Un farmaco alimento essenziale, importantissimo, e evita tanti acciacchi dovuti all'età, dovuti allo stress, fa bene a tutto, perfino alla pelle. Cioè una goccia di olio d'oliva strofinata sulle mani è ottima per mantenere la pelle morbida e non ed evitare quelle brutte macchie che capitano con l'avanzare dell'età. Inoltre anche un sacchetto di nocciole. Allora, olio e nocciole, questo è il suggerimento di Maria e noi la ringraziamo, un prezioso suggerimento, intanto tanti auguri a Maria, un farmalimento ha detto, l'ha definito nel modo più opportuno. Ma assolutamente, io voglio dare a Maria una lettura legata alla frittura. Se noi usiamo dell'olio di oliva con un po' di olio di nocciola, lei ha toccato due prodotti che ad esempio utilizzati, io tendo ad evitare la frittura in quanto tale, che però di fatto ci si rende conto che hanno un livello di fumo ridotto, che l'ossidazione dal punto di vista scientifico sappiamo che resiste alla cottura, cioè abbiamo accettato due frutti che producono degli oli fantastici che a livello salutare possono determinare dei miglioramenti importanti della salute su tutti i piani. E poi un'altra cosa, se posso, una goccia. Io ogni volta mi dicono sempre che sono pazzo quando entro nei ristoranti e mi faccio portare l'olio, una goccia sulla mano, mi venga perché io le mani le ho morbide lo stesso, però me la passo sfregando lavorandola e riscaldandola, e poi un po' a coppa, annuso, e lì si sente il fruttato dell'olio, che è uno dei modi più belli per gustare l'olio col naso prima ancora che con la bocca. Che cosa che pensi? Poeta, è un poeta, vero? Attilio. No, ragionissimo, l'olio extravergine è una delle grandi ricchezze in cucina anche, cioè io da italiano quasi non usiamo burro e panna nel mio ristorante, anche se sono piemontese, però perché comunque nell'olio trovo tutti i sapori, tutti i gusti che mi servono. Quindi... E poi nocciole, tu che sei piemontese, certo, la piemontese. Tonda d'Alba, che cosa dobbiamo certo. dire? La nostra amica ci chiamava da Viterbo, ma insomma nel nostro paese se ne incontrano. Allora, abbiamo detto che a tavola comunque torna la tradizione con i suoi piatti ricchi di storia e di gusto. Diteci se vi siete portati avanti, se state pensando, c'è chi si è tenuto un po' a stecchetto proprio in questi giorni, ha fatto un po' di attenzione per potersi godere liberamente, pienamente, è il caso di dire pranzi, cene, brindisi e panettoni, c'è chi cederà ma lo farà con qualche senso di colpa, chi invece farà un po' di slalom tra le varie proposte, salterà qualche portata, ridurrà qualche porzione appena possibile, osserverà un giorno di alleggerimento con tisane, mezzo digiuno, c'è chi invece non cambierà né dieta né abitudini, sicuramente qualcuno rimarrà fuori da questi profili che abbiamo iniziato a tratteggiare, scrivetemi il vostro, ma se vi riconoscete in uno di quelli che abbiamo pensato, chiamateci, ne parliamo naturalmente con il dottor Speciani e con Andrea Ribaldone per aggiustare un po' il tiro. Dottor Speciani, lei in quale profilo si riconosce? Io devo dire che quello dello slalomista in questo momento è la parte più indicata. C'è un motivo, nei vari profili, quello che tutto sommato dice a Natale ci lasciamo il Natale, ma però non cambiamo nell'insieme, è quello che per un po' di anni è stato il più congruo. Io credo che quest'anno noi abbiamo avuto, a partire dal 13 di novembre, che oltre ad essere il mio compleanno è anche una data che purtroppo adesso verrà ricordata sì. per un po' di turbulenze generali forti, e una somma di situazioni di tipo tensivo politico, per cui quest'anno ho detto che ci gratifichiamo con qualcosa, ha senso, cioè l'elemento di piacere che anche il cibo può dare è un elemento positivo, e quest'anno io ho detto lo valorizzo e mi lascio gustare, non tanto le bollicine, perché io preferisco senza le bollicine, mi piace di più il vino rosso tendenzialmente, quindi mi gusto con piacere un po' di vino, mi assaggio e gusto, ricordatevela questa cosa, questa è una delle domande che faccio dopo per regalare i librettini, ma assaporare quello che si sta mangiando e quindi capire se il cuoco ha lavorato bene, se viene dal posto giusto, eccetera, è un elemento fondamentale anche per la salute stessa. Allora, ci faccia subito la domanda, poi la chiediamo ad Andrea, con cui festeggeremo anche la sua stella Michelin, ci deve raccontare tutto, perché in questo periodo non ha tanto da festeggiare, no? Con, magari con tocca amici, laurea, eccetera, lavora, ma festeggia la sua stella. In un minuto la richiesta del dottor Speciani, anzi 30 secondi, perché gli altri sono di Andrea. 30 secondi velocissimi per... Inizio, per stare più magri mangiando serve di più la pasta integrale o quella raffinata? La domanda per Andrea Ribaldone invece, per ricevere a casa 5 libretti del dottor Speciani. Io vi chiedo, che abbinamento fareste con una trota marinata? Qual è l'abbinamento migliore? 800 24 00 24, scatenatevi, andiamo a sentire il nostro GR e poi torniamo di nuovo insieme tra poco. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Anche questa settimana, la settimana di Natale, grandi storie a Il Falco e il Gabbiano. La prima donna regista a vincere l'Oscar, Kathryn Bigelow. Il portiere più pazzo del mondo, René Higuita. Un grande poeta della musica che non va dimenticato, Sergio Endrigo. Un tuffo nel brivido proprio come avrebbe voluto lei, Agatha Christie. E poi 3 puntate in una per festeggiare assieme il giorno di Natale. Tutti i giorni alle 15:30, naturalmente su Radio 24, vi aspetto con Il Falco e il Gabbiano. Buone feste a tutti. Il segnale orario vi è offerto da... Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Babbo Natale, io mi sono comportato male, non mi portare niente. André, caro Babbo Natale, se vieni a casa mia, ti presento mia sorella. Ciao. le letterine a Babbo Natale e le grandi domande dei bambini sotto l'albero. Con racconti, musiche e tante curiosità torna Terra in Vista con tre puntate speciali e festose. Sono Federico Taddia e insieme al filosofo Telmo Pievani vi aspetto la vigilia alle 21, la mattina di Natale alle 9 e a San Silvestro ancora alle 21. Radio 24, feste in vista. Cuore e denari. Ma perché, come mai, ma perché? In cucina non ci entro mai. E noi siamo entrati invece in cucina con il dottor Attilio Speciani, con Andrea Ribaldone, chef stellato dei Due Buoi. Allora, ci racconti prima di mettere le mani in pasta, che cosa vuol dire avere una stella Michelin? Devo dire che è un regalo di Natale straordinario. Beh sì, è stato un anno meraviglioso per noi Due Buoi e è andato veramente tutto bene, abbiamo fatto l'Expo e poi questo premio della Stella Michelin che ci gratifica veramente. Stella Michelin è semplice, è una guida che dà un consiglio a chi viaggia. Nel tempo è diventata la guida più letta, più rinomata, e quindi non solo dà più lavoro a chi riceve la stella, perché chiaramente chi la sfoglia poi decide magari di venire a mangiare, ma è un premio anche alla carriera di un cuoco, e quindi per noi è molto importante, siamo molto molto contenti. Ma voi li individuate quando arrivano lì sotto mentite spoglie? Cioè avete l'occhio? Dite si potrebbe scrivere un libro. Infatti sarebbe da scrivere, cioè secondo me se veniamo io e il dottor Speciani dicono questi due qua mangiano solo. Allora, cioè, cerchi sempre di capire, ma sarà un ispettore? Non sarà un ispettore? Perché poi, allora, diciamo che i clienti devono essere tutti uguali, perché alla fine non è che puoi correggere in corsa quello che fai, ma al tempo stesso c'è quest'ansia di tutti i ristoratori di individuare gli ispettori delle guide, che poi spesso non riesci, perché è così, insomma, e alla fine perché bisogna fare un bel lavoro. Sì, pagano sempre, perché questo va detto, pagano sempre e non quasi mai si palesano. Quando lo fanno non ti dico, soprattutto quelli di Michelin, non ti danno consigli sulla cucina, non ti dicono com'è andata, perché poi lo vedrai sulla guida. Ti lasciano il tuo destino. Ti lasciano in sospeso. Allora, abbiamo tratteggiato alcuni profili, vi preghiamo di riconoscervi o di aggiungere magari il vostro profilo. Primo, quest'anno me la godo della serie almeno a Natale, lasciatemi mangiare. Profilo numero 2, diviso tra il piacere della tavola e il senso di colpa, cioè mangio e già non mi sento mortificato. Profilo 3, vorrei ma non posso e quindi mangiucchio, spizzico qua e là, faccio un po' lo slalom. Profilo 4, anche a Natale ti consiglio di non cambiare. Allora 800 24 00 24, ditemi a quale di questi profili vi sembra di riconoscere, oppure aggiungete il vostro, ma siate pronti naturalmente a suggerire anche le vostre ricette, i vostri consigli, a rispondere ai nostri domandoni. Allora, il dottor Speciani ha fatto una domanda molto semplice per ricevere a casa il libro Controllare il peso attivando il metabolismo, una guida che ci può essere utile sempre ma soprattutto in questi giorni. Aveva chiesto per non ingrassare meglio la pasta integrale o la pasta tradizionale. 800 24 00 24 ci ha risposto Antonio da Varese che andiamo. Mentre più sottile, intrigante e anche, devo dire, anche un po' più difficilina, la sfida che ha lanciato Andrea Ribaldone, perché punta sul gusto e sull'abbinamento. Andrea? Allora, secondo me l'abbinamento giusto per una trota, adesso lo scopriremo. Qual è? A mio parere l'abbinamento più giusto è l'acidità. Poi vediamo qual è, cosa hanno detto. L'acidità. Puntate sull'acidità. Antonio da Varese invece la sua risposta ce l'ha pronta. Vediamo se riesce a farsi mandare a casa dal dottor Speciani, controllare il peso attivando il metabolismo, perché il dottor Speciani non arriva a casa, manda il suo libretto. Antonio, buongiorno. Buongiorno, che emozione. Anche da parte mia. Antonio, lei cucina o non cucina o mangia? Io cucino, sì, cucino tutto integrale, riso e pasta integrale, per cui la risposta per il dottor Speciani è pasta integrale. Pasta integrale da Antonio da Varese e... Grande, bravissimo, bravissimo. Come quantità però non è che perché integrale possiamo farci la scofanata. Ma sai che questa è una cosa importante, perché se si danno i segnali giusti all'organismo, la fame, se è sana, se è gestita bene, cioè se uno fa una prima colazione giusta, bilancia correttamente, gusta il cibo, mastica, così lancio l'aggancio per la prossima domanda, e sente i sapori, la fame è ridotta, quindi uno ne mangia meno. Ne mangia meno, quindi è spontaneo questa cosa. Io sono critico nel dire mangiandone poca. Mangia quella che hai, ma coordina la tua giornata in modo che sia giusta la fame. Io sai cosa faccio? L'avevo assaggiato in un ristorante vegetarian vegano di Torino e fanno questa specie di pasta che sembra un'insalata, è calda, però con le stesse proporzioni, tot di pasta, tot di fagiolini, cioè tutte le verdure, per cui non diventa l'ingrediente principale. Tu mangi una pasta, ma è equilibrata, mixata con quantità proporzionale di tutti gli ingredienti, è buonissima. E quindi noi mandiamo al nostro amico Antonio sicuramente. E adesso ci lascia secco o altri libri, altre domande? Un'altra domanda subito che io ne faccio anzi due. Una, perché scusami, Andrea Ribaldone qui si è fatto una domanda un po' precisina di quelle sottile che io dico allora ma è uno chef stellato. Ah vabbè, anche io sono un allergologo immunologo stellato e me la cavo. Allora, riprendendo anche quello che ha detto Mastro Giovanni sulla riduzione dei superalcolici, che è un elemento importante, perché il vino di per sé è un alimento, ha una sua storia, una sua complessità. Allora, chiedo, qual è quella sostanza attiva presente nel vino, che è una cosa scientifica ma abbastanza nota e diffusa, che aiuta ad esempio a far dimagrire, a mantenere il peso adeguato, che ha un'azione antiossidante importante? Questa è una domanda pesante adesso. Questa è una domanda difficilina, ma ho visto dal tipo di risposte che danno ai nostri ascoltatori, alcuni sono tecnici bravi. Allora, sicuramente Filippo Auregi la conosce, ma non lo so, comunque in regia, non so se sta pensando già alla sua, al suo pranzo di Natale e se cucinerà, non credo, penso che sia una buona forchetta ma un cuoco un po' scarsetto, ma ce lo faremo raccontare. Intanto 800 24 00 24, dateci la risposta al numero verde e attivatevi anche con i vostri consigli, le vostre proposte di menù di Natale. Andrea, a Natale si spende di più, no? Perché il menù è più ricco, a volte è troppo ricco, tanto che si potrebbero risparmiare dei soldi puntando su prodotti meno costosi e più gustosi con una maggiore resa. Allora ci aiuti intanto? Allora, hai detto benissimo, Nico, bisogna a Natale farsi furbi, che vuol dire? Non è che andiamo e per forza cadiamo sempre negli stessi cliché. Allora, prima di tutto non c'è bisogno di mettere una tonnellata di cibo a tavola. Penso che la guerra è passata, nessuno di noi muore di fame e quindi facciamo una bella tavolata, anche come posso dire, signorile, che vuol dire a mio parere un aperitivo, un entrée magari in piedi con un buon calice di bollicina, qualcosina da sgranocchiare, anche solo un grissino con una fetta di prosciutto buono può andare benissimo. E poi io andrei con un antipasto di pesce, un primo, un secondo e il dessert. Quindi non troppe cose, ben bilanciate. A mio parere vedo davvero questa trota e poi diremo magari con che abbinamento insieme ai nostri ascoltatori. Ma tu riferisci, perché qui dobbiamo specificare, la trota ci sta facendo impazzire, perché tu hai detto abbinamento, intendi abbinamento di per accompagnarla come prodotti o abbinamento di vino? Perché qua ci sono, allora, va bene, sentiamole tutte e due, così vediamo cosa ci suggeriscono i nostri Quindi ascoltatori. Noi puntiamo sulla trota di antipasto al posto del salmone affumicato. Direi di sì, diciamo, e la possiamo fare a casa. Vi do la ricetta in un istante. Mettiamo. Aspetta, siamo tutti qua. Trota sfilettata, la fate già sfilettare dal vostro pescivendolo, quindi è molto semplice. Il costo sarà veramente basso a quel punto rispetto al salmone e la qualità maggiore, soprattutto biologica, come ha detto Attilio, e questo è importantissimo. E mettiamo sale grosso 300 grammi e 50 grammi di zucchero di canna, perché così si chiama sale bilanciato. 50 grammi di zucchero di canna. Okay. Copriamo i filetti di trota, li copriamo completamente con questo sale e zucchero miscelato e lasciamo su questa marinatura per circa 6-7 ore. togliamo tutta la marinatura. Scusa, 6-7 ore, ma in frigo, fuori dal frigo? Fuori dal frigo balcone. Va bene, fuori dal frigo va bene, anche al caldo, perché tanto il sale mantiene, fa mantenere, non c'è problema. Okay. Quindi vedrete che il sale e lo zucchero si intride dei succhi della trota, e quindi avremo questa trota che ha la consistenza del famoso salmone. Cosa facciamo? Sciacquiamo per bene sotto l'acqua, asciughiamo e siamo pronti a tagliare a fette sottili. Vedrete che sarà buonissima, buonissima. Non rimpiangerete il salmone, anzi, assaggerete qualcosa di straordinario. E non vi diciamo altro. Intanto 800 24 0024, ditecelo voi, perché il Andrea ci aiuta a comporre un menù. Il dottor Speciani ci aiuta a evitare anche quell'effetto molto fastidioso da cenone. Leggi, mal di testa, pesantezza, difficoltà di digestione. Ma abbiamo Domenico che ci chiama da Cremona. Buongiorno. Si mangia molto bene a Cremona, eh? La mostarda. Bene, qual è il piatto tipico delle feste di Cremona? I tortelli cremaschi, crema, non Cremona, crema. Ah, e me l'hanno spostata a Cremona, Domenico, mi scusi, perché mi hanno detto... La provincia è la stessa, Cremona. Allora, Domenico, lei voleva dare il suo abbinamento con la trota sulla salmonata. Il bollicine Trento Doc. Benissimo, italiano. Come vino può andare sicuramente bene, è un bel abbinamento. Allora possiamo dargli questo? Certo, direi di possiamo, sì. Allora, per la risposta è abbinata a controllare il peso attivando il metabolismo, e proprio sul vino, lo ricordiamo, è verte la domanda del dottor Speciani. Certo, che dice qual è quella sostanza, che in realtà è una sostanza naturale, vegetale, e darò anche un aiuto, inizia per res, che è presente nel Natale. Ce ne sono almeno 5 o 6, silenzio lì. Va bene, allora. Che aiuta il vino ad essere un alimento più complesso che non solo l'alcol. Allora, c'è anche un modo, un trucchetto che lei suggerisce per chi, come tutti noi, brinderà, no, a Natale, magari tenderà un pochino ad esagerare, perché un brindisi tira anche l'altro. Noi raccomandiamo sempre la moderazione, eccetera, però è facile, no? Magari con gli amici oppure in famiglia una flute, e poi magari viene seguita da quella subito dopo un'altra. In questi casi che cosa bisogna fare prima di iniziare a brindare? Due cose assolutamente semplici, questo vale anche per il pasto di Natale, per che sia un cenone o che sia un pranzo, non ha importanza, che io ricordo, che è comunque di fare una prima colazione, cioè di non arrivare al cenone o all'incontro con la tipica situazione da famona lasciata lì, di chi dice adesso mi ingollo. E assolutamente ci sono due spunti che sono quelli di mettere nello stomaco, prima di iniziare a brindare, qualche cosa di grassino. Quindi la mia logica della noce, piuttosto che non del prosciutto buono mischiato sul grissino integrale come prima ha suggerito Ribaldone, cioè in modo da avere una situazione che rallenti l'assorbimento del vino. Quindi noi mettiamo in bocca, nello stomaco, il vino, se trova del cibo, soprattutto con un minimo di componente grassa, quindi una nocciolina, due mandorle, tre nocciole, un pezzettino di prosciutto, una fettina di vituperato salame ottimo fatto bene, no? Che viene bene, ecco che a insieme ad un pezzo di finocchio o un pezzo di sedano, ecco che il vino si rallenta e viene assorbito con molta lentezza, quindi evitiamo di avere problematiche di eccesso alcolico immediato, e soprattutto viene placata tutto sommato la fame. Quindi questo è un trucco da ricordare, che vale sempre, ma in particolare in questi momenti direi che ci aiuta a gustare quella signorilità del pranzo, come diceva Andrea poco fa, in maniera più positiva. Quindi questo, quando si dice mi raccomando mai bere a stomaco vuoto, ecco, noi in quello stomaco ci mettiamo una noce, una mandorla, un pezzettino di frutta, di verdura esatto. O qualche cosa di grasso, che okay. Ma dal punto di vista della salute, leggi digestione difficile, senso di pesantezza, cerchia la testa, quali sono le trappole in cui è più facile cadere, e quindi le strategie anche per evitarle o per recuperare il benessere, che magari un pranzo un po' troppo abbondante? Io ne metto tre rapidamente. Uno, che il corretto bilanciamento tra carboidrati e proteine e con la quantità di fibra cifra giusta, già ha un elemento di, come dire, di tamponamento della fame, quindi uno evita di andare in eccesso. E poi io amo, ma perché tra l'altro fa parte della mia azione terapeutica, come medico spesso uso nutraceutici, sostanze positive che sono presenti nelle spezie, per cui quando io penso allo zenzero, alla cannella, alla curcuma, già prima in uno degli abbinamenti Andrea Ribaldone diceva, ma fuori onda parlava di un abbinamento con la curcuma, che sono estremamente positivi, sono sostanze che in realtà hanno un'azione antinfiammatoria nell'organismo, ma danno un importante contributo allo sviluppo del gusto finale. Non c'è bisogno di rimpinzarsi di cannella o di far diventare la cannella dominante, però è vero che tra pietanze, antipasti, dolci, un pochettino di speziatura utilizzando la storia di Marco Polo, dai, Marco Polo mi viene in mente quando lui andava a recuperarsi, altro che Via della Seta. Via della Seta è stato un accessorio, lui portava indietro spezie e le vendeva e faceva un mucchio di soldi portando indietro le spezie, perché erano importanti fin da allora. Erano importanti, adesso la ricerca riconosce anche alle spezie delle proprietà fantastiche proprio per la nostra salute, che scopriremo nel corso della trasmissione, soprattutto sollecitati dalle domande dei nostri ascoltatori. Utilizzate le spezie, quali spezie? Quelle che conosciamo tutti, che sono, no, più della tradizione anche italiana, penso alle chiodi di garofano, alla cannella, ci sono tante preparazioni, no, anche di molto antiche che risalgono al Medioevo, dove venivano utilizzate queste spezie, oppure ci siamo affacciate e abbiamo apprezzato e conosciuto spezie che arrivano da paesi più lontani, che sono delle, tra virgolette, delle new entry, penso alla curcuma, al curry. Tu ne usi, aiuta, ne no? Io ne uso e vi do la ricetta del primo, perché ha una spezia. Pronto? All'interno. Allora, noi stiamo scrivendo il menù di Natale, sì, un menù stellato, ragazzi. Allora, cioè, tra l'altro questa è in carta in questo momento, quindi è un risotto, zucca, zenzero e baccalà. Quindi anche qua, dicevamo dopo prima, la trota sfilettata, noi ci facciamo un risottino. Bravissima. Allora, dicevamo prima, l'attenzione ai costi, quindi abbiamo usato una trota e usiamo un baccalà, non c'è bisogno di usare l'astice e i gamberi, che spesso li prendiamo surgelati, sanno di niente. Allora, o prendiamo un prodotto italiano stellato, se no dobbiamo sicuramente, l'intelligenza è proprio quella, usare un prodotto che nella nostra testa è povero, ma in realtà se è fatto bene, se è prodotto nel modo giusto, è straordinario. Quindi facciamo il risotto classico, aggiungiamo questa crema di zucca. Questo ci serve, e Attilio sarà d'accordo con me, per poi mettere meno burro, perché se noi aggiungiamo sempre, quasi in chiusura, in mantecatura, una crema di verdure, metteremo, la mantecatura sarà più facile e metteremo meno burro, quindi risulterà saporito ma più leggero. Una grattata di zenzero veloce e la assaggiate in modo che ve la dosate, perché altrimenti diventa troppo piccante. Ma cosa fa? Questo è importantissimo, Nico, è importante dare un equilibrio tra la dolcezza della zucca e l'acidità e la piccantezza di questo zenzero, che ci fa bene ma anche dà un equilibrio di gusto, che è davvero, lo so che tu sei contenta di questo perché sei molto attenta, e quindi in tutti i piatti fate questa ricerca, sempre acidità e dolcezza devono andare di pari passo, mai troppo dolce o troppo acido. Quindi una grattata di zenzero, sopra mettiamo dei pezzettini di baccalà, volendo anche proprio crudo, non c'è nessun problema, perché in realtà è stato salato, quindi non ci sono problemi, oppure lo passate al vapore un attimo e lo sfilacciate, lo mettete a pezzettini. Qua metterei anche qualche seme di zucca tostato e un goccio di olio di zucca. Avete un risotto straordinario. Mamma mia, perché c'è anche una nota amara, state attenti, dolcezza della zucca, acidità dello zenzero, la salinità del pesce, l'amaro dell'olio di zucca. Tutto insieme crea questo gusto che ci fa salivare, il gusto umami. Poi ne parleremo un'altra volta, perché fantastico. È lunghissimo. Senti, ma l'olio di zucca dove si trova? In erboristeria, tutto tranquillamente, ma anche ormai anche al supermercato, è di uso. Olio di zucca, semi di zucca, la zucca in purea e un po' di baccalà. Vedrete che verrà un gran risotto. E qua, sì, io già la faccio. Allora, trota, risotto con crema di zucca, nel momento in cui si gira l'ultimo vado a mantecare, aggiungo lo zenzero, sul baccalà ho qualche problema, ma tanto no, è già equilibrato, no, lo stesso. No, a me piace molto, però ho paura di fare qualche pasticcetto, ma tu mi... Sai cosa puoi, con che cosa puoi sostituirlo? Un po' di bottarga, una grattata di bottarga che dà la nota salina, oppure qualche alga, se tu volessi una nota marina senza mettere pesce. Va bene. Posso dire una cosa prima della dello zenzero sui semi di zucca? Ti piace? Lo sapevo. Sì, i semi di zucca sono fantastici. Tra l'altro hanno dentro una sostanza importantissima e sono tra i migliori stimolanti della crescita dei capelli. Quindi, dai, miglio, ne hai mangiati pochi. Per cui già farsi, ad esempio, il muesli al mattino con il miglio e i semi di zucca, le corticate biologici buoni, non sto parlando di quelle robe terribili che si trovano, i semi di zucca salati che si trovano in alcuni cinema ancora. Vabbè, però sono buoni, dai. Saranno buoni, però. Però questi semi di zucca. I semi di zucca, quelli che usa lui e che si trovano comunque in giro, insieme agli oli e vari, hanno un'azione molto stimolante e importante per lo sviluppo del capello. Quindi, allora, la domanda che intanto arriverà. Semi di zucca si trovano in erboristerie, qualsiasi nei supermercati, si trovano supermercati. In molti supermercati, eccetera. Vanno tostati prima di essere consumati? Vanno spezzettati? Si masticano così? Si aggiungono? Fanno effetto anche se li praticamente mangiamo interi? Oppure sono Vale questa cosa. Ogni volta che noi tostiamo un seme, e quelli che troviamo commercialmente presenti, spesso con roasted scritto sopra, o ancora per salted e roasted, cioè salati e arrostiti, in realtà perdono molte delle loro caratteristiche. Insomma, il seme dovrebbe essere dry, seccato, semplicemente, quindi mangiato in questo modo. La lieve cottura che ci può stare nel momento in cui uno sta preparando un piatto gli dà il sapore, gli dà una giusta valutazione, lo amalgama nel contesto del piatto intero. Però noi, quando dobbiamo mangiare per il nostro piacere, possiamo mangiarne tanto, per favore semi naturali. Allora, intanto ci sono i nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo, siamo diventati tutti cuochi, ad esempio anche ricette molto semplici, come ci scrive un ascoltatore: ho fatto un radicchio trevigiano con la curcuma, è venuto una meraviglia. Allora via con le vostre ricette, ma noi andiamo a sentire i mercati, poi torniamo insieme tra poco. Cuore e denari. Siamo tornati insieme, stiamo preparando il pranzo di Natale, lo stiamo preparando con Andrea Ribaldone, chef stellato. Adesso è arrivata ancora una volta la stella Michelin per i due buoi, con Attilio Speciani, perché abbiamo bisogno del suo occhio vigile e attento per farci apprezzare, no? Senza effetti collaterali, tutto quello che mangiamo, anzi proprio trarre da quello che mangiamo, Andrea Ribaldone ci suggerirà le ricette, tutti i nutrimenti e i nutrienti per stare bene. 800 24 00 24, vi state candidando per suggerirvi le vostre ricette, per rispondere ai quesiti dei nostri esperti. Ma prima ci fermiamo, tiriamo un attimo di respiro. E salutiamo il nostro dottor Aria, il dottor Mauro Mocci, medico ISDE, Associazione Medici per l'Ambiente. Buongiorno, dottor Mocci. Si è volatilizzato nell'aria. Buongiorno. Buongiorno, dottor Mocci, pensavo che lei fosse in giro. Ci sentiamo. Buongiorno e auguri anche a lei. Buongiorno. Allora, dottor Mocci, il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti, intervenuto ieri ad Effetto Giorno, ha sottolineato ancora una volta che lo smog è diventato una vera e propria emergenza, tanto che ha parlato di un fondo di 5 milioni di euro per i comuni e ha anche invitato a tenere dei comportamenti virtuosi, come tenere spento il caminetto che inquina come 10 o 15 auto, o spegnere il riscaldamento se si parte, no? Per questo noi in tempi non sospetti abbiamo iniziato, no, questa nostra rubrica, proprio anche con l'intento di far crescere questa nuova sensibilità del rapporto che c'è tra aria e salute. Intanto torniamo a noi, riprendiamo il nostro tour. Oggi dove ci porta? Oggi facciamo come al solito nord, centro e sud. A nord andremo a Trieste. Magnifico. Trieste si prende un bel rosso. Come mai? E tutti pensano che magari, ma c'è il mare, c'è il vento. Trieste è una città inquinata, soprattutto il PM ieri era un pochettino alto, il PM10. Ecco, lei parla poi del PM come voi medici parlate della pressione, no? Cioè il PM, esatto, no? Oppure aveva un PM po' il colesterolo un po'. Vero, dottor Speciani? Sono le polveri. Le polveri. In questo caso quel PM10, poi abbiamo il PM2,5, che è quello più sottile, che è quello più temibile, quello più pericoloso. E scendiamo su Campobasso, Campobasso prende un verde. Sì. Poi scendi, andiamo, oggi andiamo. Quindi virtuosissima, no? Abbastanza virtuosa Campobasso. Sì. Verde, verde, ma oggi città virtuosissime non abbiamo, perché questo problema dell'inquinamento davvero sta diventando un grosso problema, e i danni non sono soltanto quelli immediati, gli attacchi di asma, la tosse, ma saranno anche quelli poi accumulati nel tempo. Andiamo oggi a Cagliari, sull'isola, in Sardegna, e Cagliari stranamente anche lì si prende un rosso. Si prende un rosso per il particolato ultrasottile, quello piccolo, quello da 2,5, perché è un po' troppo alto, forse è penalizzato dalla presenza delle navi in porto, sapete che certo. Le emissioni delle navi sono notevoli, e forse anche dalla raffineria a fianco di Sarroch. Comunque un rosso. Eccolo anche per Cagliari. Ahimè. Poi per quanto riguarda maglia nera e maglia rosa? Maglia nera la diamo a Frosinone di nuovo, ma l'associamo questa volta a una città estera che è Pechino, perché sono 5 giorni ormai che Pechino sta arrivando a livelli incredibili. Pensate che il livello massimo dovrebbe essere 50 microgrammi, Pechino fa giornalmente 400-500. Mamma Quindi, mia, veramente una camera a gas. Una camera a gas. Maglie rosa oggi non le assegno, perché nessun comune sta prendendo delle iniziative serie, secondo me serie. Quello di cui ha parlato il ministro va bene, ma non basta. Allora, abbassare le temperature nei luoghi di lavoro, secondo me, è una delle iniziative da fare. 18-19 gradi vanno benissimo. Nelle case non c'è bisogno di spegnere, quando si va via è ovvio spegnere, ma quando si sta in casa vanno bene i 20 gradi. Aumentare le temperature non serve. I caminetti è vero che inquinano, bisognerebbe utilizzare caminetti con delle caratteristiche meno inquinanti, ma le iniziative da prendere sono anche quelle di spegnere la macchina ai semafori lunghe soste, o gli autobus nei depositi devono spegnere i motori, e poi una politica nazionale andrebbe fatta a lungo termine, parco macchine da rivedere, favorire i trasporti pubblici, trasformare da diesel a gas, che è molto meno inquinante, e poi auto elettriche alimentate ad energie prodotte da rinnovabili vere. Queste dovrebbero essere le iniziative. Rinnovare il parco macchine, così come si è fatto in grandi città, non soltanto un giorno o 2 giorni targhe alterne, ma una politica che porti a consentire il traffico all'interno delle città soltanto ad auto che hanno delle caratteristiche. Certo. Degli interventi sull'acuto, tornando al paragone, dottor Speciani, con la medicina e con la nostra salute, e poi però per evitare, no, ci sono degli interventi a lungo termine che svolgono un ruolo preventivo. Quindi Io devo dire, se posso, un intervento in questa direzione. Avendo 60 anni ho vissuto la primavera silenziosa di Rachel Carson, uno dei primi libri in cui si parlava dell'inquinamento. Sono belle le proposte fatte, però sono proposte che ancora nel 68, quando ero piccolino, venivano proposte, sono spesso rimaste lì. Diciamo che non è oggi il momento discuterne, però diciamo una cosa collegata all'alimentazione. Ad esempio, io vado a suggerire l'estratto di broccolo, che è un prodotto ottimo, che ha un'azione, si dice granulopessica, che è un nome confuso, però riesce, ad esempio, stimola nei polmoni, nelle nostre mucose, la captazione dei granuli, delle PM, dei granuli di carbone, eccetera, ed ha una capacità detossificante dall'inquinamento. Quindi, si chiama? Che me lo sono appena... È l'estratto di broccolo italico che io utilizzo. Estratto di broccolo italico. Segniamoci anche questo insieme alle ricette che ci dà Andrea Ribaldone dei Due Buoi. Dottor Mocci, non so se lei ci sta seguendo, comunque le ricette di Andrea Ribaldone gliele mando. Vi ascolto. Allora ci ascolti, poi ci dirà. E noi ci sentiamo domani. Domani va bene. Dottor Mocci, grazie, sono un po' bollita, un po' come la trota di Andrea Ribaldoni. Grazie, a domani. Buona giornata. Del mio castello sono la regina, ed il mio regno è la cucina, il corridoio TV. piace è Andrea Ribaldone, ride e sorride perché intanto ci deve continuare, no? Deve continuare a suggerirci le ricette per il nostro menù. Intanto abbiamo parlato di spezie. Io vi avevo anticipato che vi avremmo dato dei suggerimenti, vi avremmo raccontato che ci sono dei cosmetici che come una bacchetta magica riescono a restituirci un po' di bellezza, di riposo e fanno un effetto un po' magia. Ne parleremo nel corso della trasmissione con il professor Umberto Borellini, cosmetologo, che si è già avvicinato a noi, è già qua seduto con le cuffie. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Tra l'altro le spezie Andrea Ribaldone le usa in cucina, ma si usano anche in cosmetica, vero? Sì, sì. Ci sono spezie come lo zenzero che si ritrova in alcuni prodotti per il trattamento della cellulite perché stimola il microcircolo, poi le curcumine come antiossidanti e poi la cannella. Sì, ci sono diciamo delle formulazioni dove con attenzione, perché alcune spezie tipo lo zenzero sono abbastanza anche un po' revulsive, quindi stimolano un po' il microcircolo, vanno calibrate bene, ma poi si può andare avanti con zafferano, tartufo bianco. Ma fantastico, ci si siede a tavola, ecco, sì. Quello che non si mette nel piatto ci... Sono ricchi di antiossidanti, lo zafferano, oltre a essere un eccezionale alimento gustoso, ricco di antiossidanti, ha delle virtù, leggevo proprio anche che contrastano alcuni stati di depressione. Non solo, anche lo zenzero, qui sotto un lavoro ancora dell'ottobre, novembre 2014, proprio sull'azione dello zenzero sulla depressione, con degli effetti similari, tutto sommato, a quelli di alcuni farmaci, quindi ben dosato. E lo stesso la curcuma, ma questo vale proprio perché, e credo che abbia senso poi anche nell'applicazione cosmetologica, quando si lavora sulla riduzione dell'inquinante, perché l'antiossidante riesce a sconfiggere dove sei inquinato, dove hai uno stato di infiammazione, eccetera. Se sia nella pancia, che sia nel cervello, che sia sulla pelle, in realtà facciamo del bene. Esatto, l'ho chiamata neurocosmesi. Neurocosmesi, ma poi il professor Borellini ci darà anche, ci svelerà quali sono quei trattamenti, quei cosmetici che non fanno miracoli, ma fanno miracoli in fondo, perché per una sera, per una giornata, ci rendono belle. Allora, vedi che si dice a tavola non si invecchia, Andrea, e si diventa anche belli. Allora, via con la seconda... Andiamo con il secondo, Allora, andiamo. Ripetiamo tutto, abbiamo fatto la trota salmonata, abbiamo messo la zucca, quindi abbiamo contenuto molto i costi. Adesso possiamo spendere un po' di più e quindi ci concediamo un cappone di cascina, perché il periodo è giusto e chiaramente state molto attenti quando lo comprate. Le cosce devono essere di colore rosso, non come siamo abituati col pollo che è bianco, perché è un pollo che non si muove, anche la coscia è bianca come il petto. Le cosce devono essere rosse perché deve essere stato in movimento, quindi ci sarà sapore e gusto. Con che cosa lo cuciniamo? Ce lo facciamo già fare a pezzi dal nostro macellaio di fiducia e poi mettiamo verza e mettiamo delle castagne, a mio parere, e facciamo tutto in pentola, un goccio d'olio extravergine. Le castagne crude. Partiamo con le castagne proprio da crudo, facciamo un goccio d'olio extravergine, facciamo tostare il nostro cappone e poi aggiungiamo la verza tagliata a pezzetti, un pochettino di cipolla se ci fa piacere, un goccino di vino bianco, le castagne a pezzi pulite proprio con lo spelucchino da crudo, pulite semplicemente e andiamo a cuocere almeno 40 minuti. Vedrete che diventerà molto saporito e sarà un bel secondo ad accompagnare. Fantastico, qua ci siamo, siamo pronti? Dottor Speciani, già la verza le piace? Verza mi piace. Sulla castagna direi che veniamo da un momento in cui l'abbiamo mangiata e quindi l'effetto un po' di turbolenza addominale che possono, quando si mangiano solo occasionalmente qualche cosa, lo danno. Devo dire che nel momento in cui, e questo sono tra i trucchi per cui alcune delle spezie che vengono aggiunte nella cottura riducono questa così tendenza di alcune sostanze, dei legumi, delle castagne a generare aria nella pancia, che è un po' il problema con cui la gente poi si lamenta, ed è un'arte. Io devo dire, ad esempio, in questo splendido ristorante di Andrea, che è i due buoi ad Alessandria, l'uso della curcuma, l'uso di alcune spezie, l'uso dell'alloro, piccoli trucchi che poi vai a rileggere su vecchissime storie, scopri che l'uso di un certo tipo di erba per far sì che il cecio non sviluppi aria, per far sì che la lenticchia non ha... Allora, io credo che quando uno si guadagna una stella è perché queste robe... uno vai là e non solo mangi ma impari. Mangi, no? Ma impari. Ma mi sa che Emanuele da Torino, non si dice, mi sa, adesso mi bacchetterà subito il mio amico che mi scrive sempre al 349-238-6666 e trova quando io e Deborah diciamo delle inesattezze, giustamente ce le fa notare. Ma andiamo da Emanuele da Torino. Buongiorno Emanuele. Pronto, buongiorno. Buongiorno, allora. Portiamoci a casa questo controllare il peso attivando il metabolismo. Ne abbiamo ancora altri, per cui attivatevi, perché vogliamo farveli arrivare a casa. Emanuele, che cos'è che nel vino ha tutte queste proprietà? Resveratrolo. Sì, esatto. Bravo, bravo. Non è l'unico, questo lo voglio dire, perché in realtà c'è proprio un bouquet di sostanze che sono fenoli, stilbeni, cioè sostanze attive che troviamo nell'uva, nei semini dell'uva, nella buccia dell'uva, eccetera, e che vengono anche in parte liberati con un attenta lavoro di fermentazione. Per cui, però quella, allora, è la prima più importante. Bravo, diciamo. Emanuele riceve a casa controllare il peso attivando il metabolismo. Andiamo a Marianna da Padova, che invece, mi segnalano dalla regia, vuole suggerirci una ricetta, e quindi è pronto un libricino anche a lei, perché sì, premiamo già l'intenzione. Marianna, buongiorno da Padova. Grazie Nicoletta, grazie di avermi richiamato. Buongiorno e auguri. Buongiorno professor Speciani. Buongiorno. Buongiorno, senta, niente, io volevo suggerire una ricetta che si potrebbe utilizzare anche per come sostitutivo del panettone finale, ma va benissimo anche a colazione. Io e mio marito la mangiavo sempre a colazione, per esempio una fetta. Quindi siamo curiosi. Comunque, allora, gli ingredienti sono: io uso farina, sempre farina zero e biologica, sì, e poi zeste di arancia, sarebbe la parte più buccia esterna, di arancia, buccia, sì, dell'arancia, succo d'arancia, sì, zucchero di canna, integrale, miele d'acacia o va bene anche il mele di agrumi, sì, eventualmente. Vedi che raffinatezza, ci dà anche i due mieli. E poi? E poi metto dello yogurt naturale per tenere un po' insieme, ok? Sì. Ecco, delle uova. E poi metto le spezie e semi crudi, ovviamente, perché tostati, come ha giustamente sottolineato il professore. Ma un po' va. Marianna, lei va un po' a occhio, come faccio io, non viene mai un dolce uguale a un altro. Dipende, variazioni sul tema. Allora, mettiamo naturalmente se ci dà la ricetta precisa, la mettiamo naturalmente sulla nostra pagina per condividerla con i nostri ascoltatori. Intanto Marianna si porta a casa a controllare il peso attivando il metabolismo. Noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Ritorniamo subito dopo insieme, se dopo tutti questi giorni di brindisi natalizi, riunioni con i colleghi di lavoro, cucina, spesa. Vi sentite uno straccio? Restate con noi, perché si occupa di noi il professor Borellini. A tra poco. Cuore e denari. Eccoci tornati insieme, ci stiamo preparando alle feste che ci attendono con i nostri ospiti, trucchi e suggerimenti per coniugare a tavola gusto e salute, e direi anche in bellezza. Professor Borellini, in questo periodo dell'anno abbiamo un grande bisogno di riposo e abbiamo tutti bene o male il viso un po' segnato, soprattutto quando si devono fare un po' gli straordinari, perché in questi giorni si corre per l'ultimo regalo, si finiscono le cose per il lavoro, c'è la casa, la spesa, ed è un attimo andare davanti allo specchio e trovarsi deprimersi. Ma abbiamo la soluzione. A lei. Sì, diciamo, questa nuova branca della cosmetologia si chiama Flash Cosmetology. Sono degli ingredienti inseriti solitamente in forme cosmetiche chiamate sieri, che una volta applicate sulla pelle tendono a stirare la pelle e con questi micropigmenti a camuffare anche le rughe, con quasi un gioco ottico, no? E ho delle testimonianze, anzi una ce l'ho qua davanti a è me vero. Che adesso vedo come che... sei stirata, vero? Mi sono messa un effetto, fluidino un sul stiramira diciamo veramente, infatti mi hanno ammirato molto. Era bellissima anche prima, sì, però è quel piccolo, no? quel senso di stanchezza sotto l'occhio, un po' la rughetta, la borsetta, il portafoglio, tutto quanto un po' che viene levigato e dà quella sensazione di freschezza, nonché anche qualche anno di... in meno, qualche se mese ce ne fosse, in meno, se ce ne fosse bisogno. Possono usarla uomini e donne, sono questi prodotti che non si vedono, sono delle cremine, perché noi sopra ci mettiamo il trucco e quindi più il trucco... che creme, ripeto, siero, perché il siero è un po' una ma via come, di mezzo. Dove si trovano? Quale domanda dobbiamo fare al farmacista perché capisce, perché di marche noi non ne possiamo dare? Farmacista, online. Ormai è cambiato tutto, qual i è prodotti il... si trovano. Ma diciamo che le parole chiave potrebbero essere lisciante ottico, siero liftante, tanto perché è chiaro che ci sono poi dei nomi delle marche, ma che certo, però diciamo per dare questa specie di caccia al tesoro facilitata, lisciante ottico, soft focus effect. Soft focus effect che è un po' che assomiglia un po' a focus economia, dentro, ma invece è soft focus effect. Mamma mia, dentro poi sono contento di essere capitato casualmente in questo pentolone di rimedi vegetali e culinari, perché anche qui ci sono degli ingredienti che ho sentito nominare. Ad esempio una sostanza che aiuta nell'asciugare questo stiraggio si ricava dalla barbabietola, si chiama betaina o trimetilglicina. Tra l'altro è anche idratante, nell'asciugarsi ha questo effetto un po' di elastico. Tiraggio. Poi anche sulle lumache, io so, si usa tanto. Sì, eh? Ma io come formulatore amo fare delle cose sostenibili, cioè se devo sfruttare, preferisco sfruttare i campi, le foglie di insalata, i frutti, le radici, gli animali, perché comunque la lumaca, poverina, produce bava, però non lo so, ho questa tendenza a utilizzare prodotti di origine vegetale. Allora, adesso per l'occhio siamo a posto, che cosa ci aggiunge? Perché non è che solamente l'occhio, anche un po' la faccetta che va un po' tirata, rughette. Ecco, allora, dopo ci sono adesso delle formulazioni, vengono chiamate cosmeceutiche, perché sono cosmetici un po' più ricchi, e allora qui abbiamo molecole come l'acido alfa-lipoico, l'acido ialuronico, le vitamine antiossidanti. Ecco, questo mix aiuta a dare alla pelle un maggiore turgore, e quindi si mettono prima del trucco. Queste fanno parte, diciamo, un po' delle cure tradizionali, invece quelli di prima sono proprio quell'effetto 3 minuti, che sono l'effetto più... 3 minuti, quindi lo possiamo avere per l'occhio, oppure per l'occhio, per le nasogeniene, perfetto, per che tutte sono le quelle zone un po', rughe, diciamo, dal naso alla bocca, pecorite, diciamo. In carta pecorite, ma chissà perché guarda noi. Allora, veramente. Senta un po', ma tutti questi consigli, eccetera, lei ha pensato di raccoglierli? Sì, ma è proprio un caso, perché il 4 di gennaio la casa editrice Mondadori presenterà il mio libro nuovo di cosmetologia chiamato La Divina Cosmesi. E quindi dal 4 gennaio in tutte possiamo le librerie d'Italia potete, non confondetevi con la Divina Commedia, perché potrebbe anche è Divina Cosmesi, Umberto Borellini. E lei tornerà a raccontarci tutti i segreti di questi nuovi Io cosmetici? Io vivendo a Milano arrivo. Allora noi intanto ci prepariamo, ci tiriamo per essere più belli, anche se insomma siamo già bellissimi, con il dessert in un minuto di Andrea Ribaldone. Ah sì, chiudiamo questo fantastico menù, quindi la trota, il risotto la zucca, il cappone castagne, e mettiamo una bella pera. Ci sono delle pere, la pera Madernassa ad esempio va benissimo, buonissima. La Martin Sec, ma tante altre in Italia ce ne parecchie. Cotta, togliamo solo la parte interna di semi e la cuociamo con vino bianco, zafferano e miele, quindi siamo tornati sulle spezie. Vedrete che sarà acidità, dolcezza e quella nota dello zafferano che, oltre a far bene, è anche digestivo, perché lo zafferano è digestivo, penso che Attilio me lo confermerà. Assoluto. E lo abbiniamo, se volete, con una salsa al cioccolato amaro 72%. Fantastico. Perché così abbiamo di nuovo il giusto connubio, l'acidità, la dolcezza e l'amaro. Allora, come sempre, prima di salutarvi, siamo arrivati al momento della favola di Natale. Oggi abbiamo l'ultimo estratto, perché domani il gran finale sarà di Andrea Vitali. Quindi, se ancora non avete partecipato alla nostra iniziativa, cogliete l'occasione, non perdetevela. Sì. Son 21 i passi che fin qui mi hanno portato, 22 le suole che per farli ho consumato, 23 le ore col cappello alla sghimbescia, 24 i giorni che ho contato alla rovescia. Sono Babbo Natale, chi altri? Aveva risposto il babbo. Ma così magro, impolverato, nero di fuliggine, stracciato. Era sceso dal camino, d'accordo. Ma era solo il 23 dicembre, un po' troppo in anticipo. E poi era senza regali. È difficile credergli. Tu l'hai scritta la lettera? Chiese il babbo. No, penso che non la scriverò, rispose prima di diventare grande, raccontando al babbo ciò che aveva saputo dalla sua compagna di classe. Sciocchezze, disse il babbo. Scusami tanto, chiese la bambina, ma come fai a dirlo? Beh, ti ho detto chi sono, ma non mi vuoi credere. Quindi non mi resta altro da fare che darti la prova che non ti sto mentendo. Sono tutta orecchie, disse prima di diventare grande. Babbo Natale le disse di avvicinarsi e le sussurrò il da fare all'orecchio. Poi, dopo averla salutata, uscì nel buio e con un fischio chiamò la renna Rudolf, che volò immediatamente a recuperarlo, mentre la bambina, prima di diventare grande, si era già messa all'opera facendo ciò che Babbo Natale gli aveva suggerito. Cioè... La neve fiocca. Saluto e vi ringrazio tutti quelli che fino ad oggi hanno scritto e hanno partecipato alla nostra iniziativa, quella di scrivere a quattro mani con Andrea Vitali la nostra favola di Natale. Condividere del resto è anche uno dei valori del Natale. Ringrazio naturalmente gli amici che sono venuti a trovarci oggi, il dottor Attilio Speciani, Andrea Ribaldone, chef stellato dei Due Buoi, il professor Umberto Borellini. Io vi aspetto domani per passare insieme un pezzo di vigilia, per me sarebbe davvero un bel regalo, e di dono parleremo proprio domani. Ci sono persone che dedicano una parte del loro tempo a fare qualcosa di utile per gli altri, un dono verso il prossimo. Possiamo mettere anche a disposizione il nostro tempo, la nostra energia, magari anche quello che sappiamo fare in favore di qualcun altro, solitamente di qualcun altro noi magari non conosciuto. Seneca scriveva: vive veramente chi è utile all'umanità e sa usare se stesso. Avete esperienze in questo campo? Vi aspetto domani alle 10:30. Buona giornata da Nicoletta.